Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci comodi tuoi. Bentornati, noi siamo di nuovo qui. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Riaprono le scuole, iniziano i problemi, ripartono le sfide educative. Insomma, partiamo con la nuova stagione di Questa casa non è un albergo. Per chi si fosse sintonizzato oggi per la prima volta, noi siamo sempre in cerca di nuovi amici da far entrare nel nostro salotto. Alberto, tu che sei un professore... Raccontaci. Allora, questo è un programma dedicato alle relazioni tra genitori e figli, quindi se siete mamme o papà o se siete... Tecnica e Giorgio De Luca in assistenza che ci accompagnano e che ringraziamo. Allora Alberto, abbiamo spiegato a chi non ci conosce ancora il tipo di programma che è il nostro, ma ora raccontiamo ai nostri amici da casa il tema di oggi, un tema che inaugura la nostra stagione. Sì, siamo proprio entrati nella prima settimana di scuola, ma vogliamo ripensare alle molte cronache che l'estate ci ha portato relativamente a cosa hanno fatto i nostri figli in vacanza. Molti hanno fatto cose splendide, hanno ricordi meravigliosi, ma nelle ultime settimane hanno fatto molto discutere alcuni articoli apparsi sui giornali relativi. Una ragazza sedicenne ha scritto al Corriere, ha generato un dibattito enorme, è andata su un'isola greca e ha detto si viveva di notte, si dormiva di giorno e alla fine della vacanza io ho scoperto di aver buttato via il mio tempo. Un'altra cosa che ci ha molto colpito è il fenomeno del balconing, che vi spiegheremo strada facendo. Fondamentalmente siamo proprio qua a riflettere su perché hanno bisogno di fare esperienze così estreme e che relazione c'è tra questa ricerca di un rischio estremo e inutile e l'uso di sostanze e di droghe. Allora, prima di andare ad ascoltare due brevi contributi, vogliamo presentare l'ospite di oggi, che oggi per la prima puntata è qua in carne e ossa, il dottor Franco Riboldi. Buongiorno. Buongiorno. Il dottor Riboldi è un medico, un criminologo, è responsabile del servizio dipendenze del discreto di Merate della ASL di Lecco. Tra l'altro ha proprio in uscita per Franco Angeli un libro che si intitola Droghe ricreative. Il titolo ci ha molto colpito e credo che ne discuteremo insieme, ma proprio per farvi entrare nel tema di oggi vorremmo farvi ascoltare un breve estratto dalla lettera che una ragazza sedicenne ha mandato alcuni giorni fa al Corriere della Sera. Chi arriva a Ios arriva per bere. I vicoletti ai lati della strada sono pieni di gente che vomita o sta sdraiata per terra. A me è andata bene. Non ho dovuto tenere la testa a nessuno dei miei amici. Ho 16 anni, sono minorenne e non posso entrare in discoteca. Per questo avevo voluto andare a Ios, provare a stare in discoteca fino a tardi. L'ho provato. Basta così. Sarebbe stato meglio andare a lavorare. Mi sarebbe piaciuto di più. Capire che significa e mettermi in tasca un po' di soldi per non dover chiedere sempre ai miei. Ma il prossimo anno farò così. Mio padre dice che potrei andare tutta l'estate da uno stilista a New York, così sto in negozio e imparo meglio l'inglese. Ma 2 mesi mi sembrano tanti. Io lavorerei un mesetto. Di giorno lavoro, la sera esco. E poi ho i soldi per pagarmi una vacanza. I miei amici in campagna lavorano tutti e li vedo più felici. Io quest'anno non vedo l'ora di andare a scuola. Mi sono trasferita in Italia, a Genova. Magari potrei lavorare facendo un po' di volontariato al Gaslini. Il secondo contributo, Alberto ve l'aveva anticipato, è una breve scheda che abbiamo proprio predisposto per descrivere un fenomeno che molti di voi avranno letto sui giornali, direi un po' stupefacente. Nome balconing. Luogo di nascita e diffusione Spagna, Isole Baleari, soprattutto a Palma de Mallorca e Ibiza. In cosa consiste? Ragazzi e giovani, spesso sotto l'effetto di alcol e droghe, si lanciano da balconi di alberghi di vacanza che sono affacciati sulla piscina della struttura. L'obiettivo è rischiare la vita, centrando la vasca piena d'acqua. Che cosa hanno in testa i nostri ragazzi, no? Viene da chiedere, dottor Riboldi. la ragazza del Corriere che ha scritto la lettera al Corriere, beh, da mamma potrei dire non è che ti trascina nessuno a fare una vita notturna in discoteca, immagino che l'isola offra anche altro, ma comunque in qualche modo si è tirati dentro, ma si è tirati pesantemente dietro a questa così specie di roulette dove i ragazzi rischiano la vita buttandosi nel vuoto per centrare la piscina. E noi genitori che viviamo magari delle storie molto diverse, poi lei sa meglio di me che il proprio figlio è sempre più buono degli altri, i problemi sono sempre a casa degli altri, rimaniamo davvero un po' stupefatti. Allora io vorrei che lei insieme ad Alberto Pellai ci aiutaste un po' a ragionare, magari Alberto lanciando un mini sondaggio. Allora, due domande per voi all'ascolto: come i vostri figli hanno commentato con voi questo fenomeno? Poi avremo con noi una giornalista specializzata proprio in giornalismo per i più giovani. Il modo in cui i giornali, i media hanno parlato di questo fenomeno, secondo voi è un modo che approfondisce o al contrario è molto pericoloso per i nostri figli preadolescenti o adolescenti perché può scatenare emulazione? Mandateci messaggi al 349-238-6666. Serve parlarne nei media come stiamo facendo per esempio noi oggi, o addirittura il rischio è quello di aumentare l'interesse da parte dei giovanissimi? Dottor Franco Riboldi, prenderei proprio spunto dal titolo del suo libro per cercare di capire perché i nostri ragazzi hanno bisogno di tutto questo per divertirsi, per provarsi, per fare esperienze. Sono forse una minoranza, ma esistono e potrebbero, come suggeriva Alberto, fare così, far scattare questo desiderio di emulazione da parte degli altri. Ma innanzitutto la lettera che della ragazza mette in evidenza quelli che sono gli spazi di incontro dei giovani. I giovani hanno bisogno di spazi ricreativi dove incontrarsi e costruire un senso di appartenenza. Questi non sono spazi opzionali, sono delle icone, sono dei simboli in cui riconoscersi e in cui identificarsi. Ecco, il giovane non rinuncia a questo, all'approvazione dell'amico, dell'amica, e piuttosto che rinunciare a questi spazi accetta i compromessi, accetta il rischio, tra cui anche quello della sperimentazione di sostanze, tra cui alcune favoriscono l'accettazione di questo rischio. L'alcol, per esempio, sicuramente nella sua prima fase degli effetti è una sostanza disinibente, crea euforia e quindi abbassa le resistenze. Altre droghe, come soprattutto le anfetamine, permettono di eccitarsi e quindi di mettere l'organismo nella condizione migliore di rispondere alle sollecitazioni che si prova durante una lunga notte in discoteca, o anche per sperimentare certi rischi estremi, perché queste sostanze rendono onnipotenti, no? Danno la sensazione di poter fare un po' tutto quanto. Alberto. Penso che effettivamente, come dice la ragazza, lei è andata a Ios proprio perché voleva ballare di notte. L'ha provato e dice: certo che dopo così tanti giorni io l'ho trovato molto più annoiante, stufante, stancante che divertente, quindi non lo farò più, però ha dovuto buttarcisi dentro. C'è un altro aspetto che vi abbiamo lanciato, tra l'altro cominciano ad arrivare molti messaggi, è importante parlarne ma a patto che non si dicano sciocchezze, come in molti casi abbiamo ascoltato dai media. Abbiamo chiamato Rossana Sisti, l'abbiamo rubata a un weekend a Madrid. Per chi non la conosce, Rossana è responsabile di un progetto, Popotus, che è l'unico quotidiano appositamente pensato per ragazzi, che due volte alla settimana viene distribuito con Avvenire, ha appena scritto tra l'altro un libro per San Paolo, visto si stampi. Lei si occupa proprio di comunicare le notizie ai giovanissimi e vorremmo capire, Rossana, buongiorno intanto. Buongiorno a voi. Si devono raccontare queste cose ai ragazzi, e quando voi lo fate qual è il taglio che cercate di seguire, oppure è meglio non parlarne? Ma dunque io distinguerei, perché io mi occupo di informazione dei bambini, quindi questo è già un discorso a parte. Qui la notizia di per sé, io parlo come giornalista, c'è, perché la qualità, la quantità degli episodi, la ripetizione in breve tempo ne fa una notizia, quindi una notizia si dà. A questo punto però il professionista dell'informazione deve decidere. Chi si occupa come me di che ha un pubblico di bambini, il nostro pubblico ha dai 7 ai 12 anni, poi con sforamenti in su e in giù e anche qualche adulto, e noi lo consideriamo un pubblico da maneggiare con cura, sì. Quindi quando si tratta di problematiche delicate, insomma, bisogna stare molto attenti, ecco. Questi episodi, no? I ragazzi che si buttano in piscina dagli alberghi dopo una notte folle, no? Con droghe e alcol, sono episodi di cronaca nera, quindi noi con questa cronaca nera siamo molto cauti, no? Credo che in fondo si tratti di giochi estremi, inconsapevoli, no? Quindi noi quando parliamo dei bambini dobbiamo dare spazio a delle cronache che lasciano dei margini di speranza, perché sennò questi sono a mio parere un po' dei suicidi, punto e basta, no? Quindi io vorrei dare queste notizie secche non ha molto senso. Rosanna, io vorrei far entrare nel nostro salotto radiofonico Patrizia, ci chiama da Trapani. Patrizia, buongiorno. Buongiorno, sì, sono molto d'accordo con quello che stava dicendo. Oltretutto io ho un figlio di 17 anni che mi dice proprio questo, del problema di molti giovani che appunto si sentono da emulare gli esempi degli altri. Quando sente il telegiornale la sera con me dice: ma questa è una battaglia di guerra, quello che si è ucciso, quello che è andato a sbattere con la macchina, quello che ha fatto che ha ucciso la moglie. E dice: queste cose non sono positive per noi. Io infatti vorrei anche aggiungere che proprio su queste tematiche che riguardano i giovani e che credo che nascano proprio dalla politica del territorio, che è sbagliata e che non vede il confluire di attività socio-ricreative che consentono ai giovani di incontrarsi e stare tra loro, vorrei suggerire proprio un libro che parla, sì, di questo e che è intitolato Non siamo figli contro figure, che sta andando molto bene perché è scritto da una giovane di 25 anni che si chiama Benedetta Cosmi e che parla proprio di quanto sia importante il dare spazio a delle attività come per esempio la biblioteca aperta, come per esempio i musei aperti, perché se i musei sono chiusi di sera, quando i ragazzi vengono lasciati da soli, se tutte queste attività interessanti vengono chiuse, il ragazzo non ha altro che andare a fare quelle cose che rimangono aperte, ovvero Patrizia, i locali dove ci si sballa. Patrizia, scusi, però bisogna iniziare ad educare. Cioè adesso, se un ragazzino ormai sedicenne ha un grande desiderio di andare in discoteca, quindi vuole emulare gli amici eccetera, non è proponendogli a 16 anni l'alternativa museo che lui dice: ah, c'hai ragione, è vero, vado a vedere il museo. È un lavoro che bisogna iniziare. Io sono assolutamente d'accordo con Rosanna Sisti che dice è un pubblico quello piccolo da prendere con le pinze. Diamogli delle buone notizie, coltiviamoli, e allora le alternative poi diventano reali alternative. Adesso un ragazzo che si può assolutamente recuperare, i ragazzi crescono, cambiano, per fortuna non sono mai uguali a se stessi, però proporre ad esempio alla ragazzina che è andata a IOS quando lei voleva solo andare a ballare fino a tardi: no, guarda, c'è aperto il Palazzo Reale a Milano dove c'è la notte. Io non so quanto queste proposte abbiano appeal. Credo nell'appeal di queste proposte nel momento in cui c'è un lavoro prima da parte della famiglia, da parte della scuola, da parte dell'istituzione, da parte del territorio, che coltivi i ragazzi che iniziano a capire che gli stimoli possono essere. Io sono a favore della discoteca, se la discoteca diventa un luogo di aggregazione sano per muoversi, perché tutti noi, almeno tutti noi, anche il dottor Riboldi immagino sia andato in discoteca da ragazzo, non vogliamo demonizzare delle situazioni, vogliamo far crescere i nostri figli liberi, e per farli crescere liberi ci vuole tanto impegno e da soli come famiglia non ce la potremo fare. Dottor Riboldi. Ma io penso che sia molto difficile eliminare i fattori di rischio presenti nella società. Come dicevo prima, gli spazi dell'incontro sono fondamentali per il giovane. Non ci sono soltanto le isole, ci sono le discoteche, ci sono i rave, ci sono addirittura l'ambiente familiare può diventare, nel momento in cui non ci sono i genitori, uno spazio di incontro. Non è questione di vietare lo spazio di incontro, la questione è preparare il giovane a vivere questo spazio di incontro nel modo più naturale e sereno possibile. Questo è fondamentale. Purtroppo i nostri giovani non sono preparati a questo, attraversano una fase di cambiamenti, di trasformazioni in cui fanno fatica a controllare le emozioni, per esempio a gestire lo stress. Ecco, a questo non sono abituati. Per esempio la dimensione del piacere, che è un po' l'attrattiva di tutti i paesi dei balocchi, ecco, il giovane non è preparato, e allora di fronte alle stimolazioni più varie, ma non soltanto le droghe, perché ci sono tantissimi altri oggetti di piacere oggi, sempre più sofisticati, sempre più attraenti, il giovane è spiazzato. E allora, pur di non rinunciare all'offerta dell'amico, al sentirsi escluso, perché non andare nell'isola dove vanno tutti, il ragazzo si sente messo da parte, si sente sminuito, e questo porta chiaramente ad una situazione di disagio. Riprendo quello che diceva Rosanna Sisti. Secondo me però è molto importante anche rendere visibili molti altri, proprio quest'idea di un adolescente che non è solo controfigura di chi segue il flusso. In questo senso credo che Popotus, in casa mia per esempio i bambini lo leggono, sia davvero un ottimo esempio, cioè tante volte si possono raccontare notizie bellissime su giovani di cui nessuno sa niente. Rosanna, noi sappiamo che tu devi scappare, tra l'altro cosa andrai a vedere? Sei in una città magnifica? Purtroppo siamo già quasi sulla via del ritorno, abbiamo visto tante cose, vabbè, siamo stati ai musei, ma siamo stati anche nelle cervecerie, insomma qui a Madrid c'è soltanto l'imbarazzo della scelta. Un indirizzo a Madrid dove portare un adolescente, così aiuto. Ti sfruttiamo questo tuo viaggio, no? Per questa casa non è un albergo. Sì, beh, un adolescente dove potrebbe andare a Madrid? Ma insomma c'è una movida che è l'esterno. Madrid. Senti, ti ricordo questa frase, mi ha scritto Gualtiero scrivendo: Tiziano Terzani scriveva che occuparsi di cronaca permette di leggere la realtà con un microscopio, mentre per capirla serve un cannocchiale. Un bacio a Rosanna Sisti, ciao Rosanna. Ciao anche a voi. E guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere se poi è tanto difficile morire, e stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi. Tu chiamale se vuoi emozioni. Emozioni estreme le cantava anche Lucio Battisti decine di anni fa. Le cose sono in qualche modo identiche, eppure sono così cambiate e così diverse. Per quale motivo, dottor Riboldi, un tempo uno ascoltava una canzone così e accendeva pensieri, cioè si discuteva davvero della fatica magari di crescere, e adesso invece non si accende più nessun pensiero e si entra in automatico in un comportamento così pericoloso? Alcuni, certo. Ma direi che i comportamenti ad alto rischio nei giovani sono condotte comuni e anche storicamente svolte in diverse modalità. Un tempo si usava lanciarsi da un ponte legato a un elastico, oppure camminare sui cornicioni, attraversare i torrenti in piena, sfidarsi a chi si toglie per ultimo da una situazione pericolosa come dai binari del treno. Ecco, di fronte a questi... Però no? Lei che di disturbi mentali se ne intende, c'è qualche cosa che Vabbè, ci sono, diciamo, che la ricerca di sensazioni non funzionano. No, ci possono essere delle situazioni di depressione a monte, quindi di una un rifiuto di sé e il tentativo quindi anche di autodistruzione, però nella maggior parte dei casi, soprattutto negli adolescenti, ci troviamo proprio di fronte a diverse spiegazioni. Il mondo adulto è sbigottito di fronte a questi fenomeni, ma ci sono tante spiegazioni. Una, ricordando la canzone di Battisti, è che il cervello emozionale nell'adolescente è molto più sviluppato rispetto a quello dell'adulto. Quindi c'è proprio una ragione biologica per cui è normale che gli adolescenti mostrino una maggiore impulsività, abbiano un minor controllo delle emozioni e quindi sottostimino il rischio. Poi ci sono altri aspetti, per esempio alcuni tratti caratteriali dovuti all'educazione. Ci sono, per esempio, l'onnipotenza. L'onnipotenza è un aspetto immaturo della personalità, dove c'è la fantasia che tutto sia possibile, no? Un po' il potere che ha un Dio, attribuibile a un Dio. E questo è spesso il frutto di un'educazione ultra permissiva, dove i genitori non hanno mai detto di no ai loro figli. Questo limiti. Rimane per me che troppi ragazzi, quando entrano in queste cose, spesso non sono lucidi, sono sotto l'effetto di sostanze che tolgono proprio la capacità di lavorare sulla percezione del rischio, e quindi fanno cose su cui non hanno la minima comprensione di ciò che sta avvenendo. Io vorrei salutare Gabriele, che ci chiama da Padova e sta aspettando. Gabriele, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ecco, niente, io volevo fare un intervento in merito all'utilità o meno di fare delle trasmissioni, diciamo, su un tema come questo, il balconing, no? Perché io volevo dire questo, io penso che qua in Italia, se non vi fossero state magari delle trasmissioni anche per Italia 1, Canale 5, così dedicate a questo fenomeno, in Italia nessuno ne avrebbe mai sentito parlare. E questo perché? Perché penso che in realtà questo fenomeno sia ancora un fenomeno molto piccolo, molto localizzato in una determinata area. Per esempio adesso qui si parlava delle isole spagnole, però so che si fa anche su altri posti. Però non vorrei che magari parlandone un po' troppo si potesse aggiungere a quella lista che prima faceva il dottore di bravate, ma con senso, diciamo, serio delle parole, che i giovani iniziano a fare magari in un certo periodo della loro età, di l'adolescenza, per vari motivi. Cioè, non vorrei che finché il fenomeno è ancora piccolo non fosse evidenziato. Ecco, questo pensa Gabriele, che in certe cose lo senti e dici, beh, in fondo ha ragione, ma allora non si dovrebbe più parlare di nulla. Questo, forse è trovare il modo. C'è un cosa e c'è un come, che è una delle frasi che uso spesso io nel mio lavoro. Cioè, il cosa, l'argomento di ciò di cui stiamo parlando è chiaramente problematico. C'è poi un come viene affrontato. Il problema del balconing, i media ce l'hanno identico quando devono parlare di un suicidio di un ragazzo, perché c'è proprio questo aspetto di nuovo legato all'emulazione. Però, andando a vedere quello che hanno pubblicato negli ultimi anni proprio sul tema del suicidio, una delle cose per cui avviene è che i ragazzi hanno una paura terribile della loro morte, non riescono a parlarne con nessuno, per cui spesso nel lavoro di prevenzione quello che ci sentiamo dire è: non abbiate paura di parlarne, ma imparate a farlo in un modo che è utile, che fa bene a chi sta crescendo. Sono d'accordo con Gabriele, alcuni servizi che sono stati poi fatti vedere in televisione, e credo che la televisione abbia anche il problema dell'immagine, cioè può far vedere e l'immagine è subito emozionale, cioè fa scappare invece dal circuito più razionale del pensiero, a volte rischiano, secondo me, di facilitare l'emulazione e l'imitazione. Io, Alberto, vorrei, è, se vuoi, confinante con il tema di oggi, ma fotografo sempre un po' la preoccupazione dei genitori che scoprono che i loro figli stanno superando limiti, o quelli che loro ritengono limiti. Carla ci scrive, mamma di una ragazza di 16 anni: quest'estate sono rimasta allibita dalla facilità con cui mia figlia e molte sue amiche bevevano super alcolici prima e dopo cena. Mi devo preoccupare? Dottor Riboldi, Lei ha scritto tra l'altro Stop alla dipendenza dall'alcol, le regole d'oro per ritrovare il gusto della vita, no? Di De Vecchi editore. Non siamo ancora ad una dipendenza, ma siamo ad un comportamento che può portare gravi rischi. Non stiamo, li conosciamo tutti, dalla guida in stato di ebbrezza, gli incidenti stradali del sabato, ma anche proprio uno stile, prendere coraggio da alcol, in questo caso come ci riferisce Carla, oppure droghe, per tirarsi su. Per no, quel bicchiere che dà coraggio, che fa sentir simpatici, che toglie le paure. Lei come mamma, come papà in questo caso, ecco, che cosa potrebbe suggerire alla nostra Carla? Ma fondamentalmente il problema sono gli eccessi, perché non è possibile evitare la sperimentazione. Molte volte la sperimentazione di sostanze è un fatto obbligato nella vita dell'adolescenza, soprattutto dell'alcol, che è una sostanza legale, diffusissima. Oltretutto i meccanismi con i quali questa sostanza produce attaccamento non sono soltanto il piacere in sé, ma ci sono anche i meccanismi del gusto, il meccanismo della sete, cioè tanti aspetti che poi alla fine vanno a toccare quello che è proprio il sistema di gratificazione dell'individuo, che poi è uno dei principi fondamentali del comportamento. Direi che alla mamma che ciò che conta è fondamentale la coerenza, perché spesso, sto facendo un discorso un po' ai genitori, spesso si pretende dai figli che non facciano questo, che non facciano quello, ma poi dopo magari siamo noi primi o a fumare le sigarette o attaccarci a qualche altro oggetto di piacere. Il problema è proprio questo, cioè cercare di essere coerenti. Non si può insegnare un valore dalla cattedra con il premio, con le punizioni, ma con l'esempio. Alberto, chiudiamo con un messaggio, una riflessione, se vuoi un esercizio anche molto semplice da fare per questa settimana per relazionare con i nostri figli. Ma io direi usate proprio il tempo a tavola. C'è una ricerca uscita negli Stati Uniti l'anno scorso che dice che più i figli passano a tavola almeno una volta al giorno tempo con i loro genitori senza invasioni di TV e telefonini, più sono protetti proprio dal rischio di tabacco, alcol e droghe. Per cui fate godetevi una settimana di esercizio a tavola. Sono quello che di più prezioso abbiamo nella vita e sono il nostro futuro. Grazie per averci ascoltato, per essere intervenuti. Appuntamento al prossimo sabato. Buon weekend da Nicoletta Carbone ed Alberto Pellai.